Pagina 3. Nanga Def, buongiorno in Wolof, la lingua ufficiale del Senegal. Come avete appena ascoltato, a Mondi di Dire, buongiorno da Marzia Coronati, benvenuti e bentrovati a Pagine 3, la cultura nei giornali, nel web, nelle riviste. Sono le 9:04 minuti di venerdì 12 agosto e noi continuiamo ad aprire le nostre rassegne con degli elogi per chi ha ascoltato le puntate di questa settimana di Pagina 3. Ieri abbiamo aperto con un elogio all'ozio, peraltro molto apprezzato dalle ascoltatrici e gli ascoltatori in queste giornate agostane, mentre due giorni fa abbiamo parlato dei perditempo, di come fare a riprenderci il nostro tempo. Abbiamo fatto un elogio di chi riesce in qualche modo a fermare le lancette. Oggi continuiamo con i nostri elogi e andiamo a fare un elogio della ribellione, sì, perché se ne parlerà domani nel settimanale Left, che trovate appunto in edicola da domani, che esce con un numero monografico tutto dedicato proprio a essere ribelli. Cosa significa oggi essere ribelli? E Simona Maggiorelli, all'interno di Left, intervista Lamberto Maffei. Lamberto Maffei è un neurobiologo, il vice direttore dell'Accademia dei Lincei e lavora anche alla Normale di Pisa, dove insegna e fa ricerca da moltissimi anni. In questa intervista di Simona Maggiorelli, Maffei parla dell'importanza di sapersi ribellare nel mondo della ricerca, ma parla anche del rapporto tra ribellione e malattie neurodegenerative, che è un po' il suo campo di studio. Ma andiamo a vedere questa intervista, che potete trovare da domani sulle pagine di Left. Domanda alla giornalista Maffei: professore, oltre all'impegno nello studio, quanto conta nella ricerca sapersi ribellare? E risponde Maffei, che al tema ha dedicato anche un libro edito recentemente dal Mulino con il titolo Elogio della ribellione. Risponde Maffei: la scienza è il nuovo, saper pensare diversamente, ma spesso le congiunture economiche spingono a seguire certe direttive, perché solo così si trovano i fondi nella ricerca applicata, e questo riduce anche lo studioso più fantasioso a schiavo. Così diventa davvero difficile fare ricerca, che è andare contro, è fantasia, è ribellarsi ai luoghi comuni, tentare di rovesciarli guardando al futuro. L'azzardo del pensiero è importante per aprire nuove strade. Allora, chiede Maggiorelli, quanto è praticabile per i ricercatori in Italia questa via che lei in qualche modo ci sta tracciando? E risponde Maffei: purtroppo il ricercatore non ha neanche la libertà di seguire un proprio pensiero, perché c'è qualcuno che è economicamente più forte, più potente, che decide per lui. È molto difficile per il ricercatore italiano oggi ribellarsi, se non andandosene via. Alla Scuola Normale, dove ho insegnato per tanti anni, tutti gli allievi prima della laurea sono già impegnati all'estero e pochi ritornano. Anche l'insegnante a un certo punto ne è contento. È vero che perdiamo delle grandi menti, ma almeno questi giovani si realizzano come ricercatori, come individui. Di questi esodi e controesodi poi continueremo a parlare nel corso della rassegna di Pagina 3. Ascolterete che in realtà c'è qualcosa che sta cambiando nel modo di muoversi dei nostri studenti nelle università. Ma torniamo all'intervista a Maffei. In elogio della ribellione, le chiede Maggiorelli al professore: lei sottolinea l'importanza dell'infanzia quando si è più ricettivi e aperti al nuovo. Qual è il compito della scuola? Risponde Maffei: la scuola dovrebbe stimolare il pensiero critico. È importante perché i ragazzi crescano senza essere condizionati dalle risposte preconfezionate che offrono i media. Così il ragazzo si abitua a ragionare, a porsi delle domande, è stimolato a pensare e non a credere. Se uno presta fede a tutte le fandonie che ci vorrebbero imporre, allora si forma un cittadino succube a ciò che gli viene detto e vi vedo un pericolo per la democrazia. E ancora tante domande al professore, che, come vi dicevo, ha dedicato un libro al tema della ribellione, il rapporto tra ricerca e ribellione. Ve ne leggo un'ultima. Chiede Maggiorelli: lei studia le malattie neurodegenerative, c'è un modo di ribellarsi a malattie oggi senza terapie efficaci, come ad esempio l'Alzheimer? Il cervello ha bisogno di stimoli esogeni e endogeni, come quelli provenienti dalla memoria. Un cervello senza stimoli è in coma. Da un punto di vista medico si può aiutare l'anziano ridandogli degli stimoli, se ha rapporti umani, se riceve stimoli cognitivi, motori o di altro tipo, per esempio la musica è molto efficace, allora le sue capacità mentali, cerebrali, indubbiamente migliorano. Per sempre? No, ma rallentano i processi di invecchiamento che oggi, non di rado, hanno un esito crudele come l'Alzheimer. Sta diventando una malattia pandemica. Se possiamo rallentarne il corso, se riusciamo a tenere queste persone in uno stato di attività cerebrale o paranormale, è una grande opera medica, umana e, da ultimo, economica. L'intervista a Maffei e il suo elogio della ribellione lo potete trovare da domani in edicola all'interno del settimanale Left.